Poi abbiamo Vittorio Solivede, astro nascente nell'ambito delle tastiere, che tra l'altro abbiamo anche piacere che sia, diciamo, della zona in certo qual modo, cioè viene dall'Ariano. E poi ultimo ma non ultimo, Max De Lucia. Allora buon ascolto a tutti, perché un milione anni di chiacchiere stanno a zero, e quindi buon ascolto a tutti. Thank you. Buonasera, Nanni, città dei Papi, bellissimo posto, nel pubblico vedo molti amici, qui con me ho il piacere di avere questo giovane sassofonista polacco di Cracovia, gli dico il nome, Marcin Korniecz-Kornicz. Una cosetta va detta, praticamente in questo momento ci sono due persone che non si sono mai viste prima che stanno suonando insieme, ed è Marcin Korniecz-Kornicz e l'organista speciale Vittorio Solimene. Perché Vittorio è ormai richiestissimo. Ieri stava in Sicilia, non so, domani sta a Torino, eccetera, eccetera. Quindi non abbiamo avuto modo di incontrarci con Marcin. Quindi, a prima vista, come si usa a volte nel jazz, riusciamo a fare queste cose. Invece un amico di lunga data alla batteria, Max Massimiliano De Lucia. Io mi chiamo Aldo Iosue. Questo cognome è un po' strano, viene dal Molise. E allora io faccio un po' di scena, mi faccio chiamare all'americana Joshua, e quindi Aldo Joshua Iosue, quindi come volete voi. E, grazie. Questo concerto si ispira a un disco, come ha già detto Luca Pierron, che è questo disco, che è il terzo che io ho fatto a Cracovia, dove ci sono veramente musicisti giovani, bravissimi, con i quali io mi trovo bene, malgrado la mia età, però. Ed è questo, Empty Nights in Cracovia. Perché Empty Nights in Cracovia? Dopo il Covid, che c'è stato anche lì, quando sono riuscito a tornare, dopo alcuni mesi, dopo l'embargo, praticamente, insomma, il blocco, mi dissero che a Cracovia, durante la notte, spegnevano le luci della città, perché dice tanto, non ci sta nessuno, risparmiamo, tutto spento. Per cui Cracovia, che è una città di 700.000 abitanti, dalle immagino 10 di sera alle 6 della mattina, era buia e quindi non c'era nessuno per strada, ecco perché Empty Nights in Cracovia. Quindi le 8 composizioni che sono in questo disco diciamo raccontano un po' quello che io ho sentito, a cui mi sono ispirato sulla base di questo evento. Il primo brano che abbiamo che vi ho fatto ascoltare si chiama Four Brotherly Cats. Cats nel senso di gatti, uno vorrebbe pensare. E sarebbe quattro gatti fratelli, che sarebbero quattro gatti di una mia amica di Cracovia che non andavano tanto d'accordo, si graffiavano eccetera. E io, nella speranza che questi gatti facessero amicizia, ho scritto questo pezzo. Il pezzo successivo si riferisce invece all'Etna, il vulcano, che c'entra, perché quell'estate andammo dove la mia compagna ha una casetta a Milo, ci fu un'eruzione dell'Etna simile a quella di adesso e quindi questa sabbia nera copriva le macchine, le strade eccetera, e quindi mi sono ispirato, era lo stesso periodo del Covid diciamo, e quindi si intitola Black Sand from Etna. Thank you. Thank you. Thank you. Questo pezzo si chiama Catalonian Strings ed è dedicato a un violinista spagnolo che vive a Cracovia e col quale ho il piacere di suonare di tanto in tanto. Quindi Catalonian Strings, che suona il violino. Ora andiamo in famiglia. Ho scritto un brano per la mia nipotina Giulietta, che balla sempre, e quindi il tema è Giulietta's Tribal Dance, la danza tribale di Giulietta. Thank you. L'ultimo brano che abbiamo suonato è uno slow, una balla, ed è collegata anche lei a Cracovia. A Cracovia io ho molti amici, alcuni vengono anche ad ascoltare delle mie delucidazioni sul fraseggio, sull'armonia, che mi considerano un vecchio saggio, forse più vecchio che saggio, ma insomma. E quindi un caro amico sassofonista stava da me, parlavamo di musica e si fermò e mi disse: per Bacco, ma tu di armonia ci capisci? E io dissi: beh, ho studiato armonia tutta la vita. E lui: e le donne? Cioè, sempre l'armonia, ma le donne? E allora ci facevamo una risata. E ho scritto questo pezzo che avete sentito, che si intitola Harmony in Women, cioè l'armonia nelle donne, perché le donne hanno il loro peso, diciamo. E quindi adesso facciamo un altro brano dedicato a un trombonista di Cracovia che si chiama Janusz Nowak, e quindi è un blues che si chiama Blowing with Mr. J.N. J.N. sarebbe Janusz Nowak. Thank you. Siamo giunti al termine perché dobbiamo dare spazio a un amico importante e quindi vi salutiamo con un pezzo dedicato veramente a Cracovia e al suo buio durante la pandemia. che è poi il titolo del disco, che faccio ancora vedere, Empty Nights in Krakow. In questo disco, registrato a Cracovia, ci sono io al trombone, Marcin Konieczkowicz, esattamente, al baritono, e un organista polacco, che non è qui stasera, Kajetan Galas, sostituito egregiamente da Vittorio Solimene, e un batterista polacco che si chiama Grzegorz Pałka, sostituito anche qui egregiamente da Max De Lucia. Il brano finale del nostro concerto si intitola appunto Empty Nights in Krakow, cioè notti vuote a Cracovia. Thank you. Thank you. Marcin Konieczkowicz, baryton sax, kontrabas, Marcin Konieczkowicz. Vittorio Solimene, organo Hammond. Max De Lucia, Massimiliano De Lucia, batteria. Aldo Joshua Iosua e trombone. Grazie. Dziękujemy bardzo po polsku. Se Enrico ha la pazienza e voi facciamo un pezzo, possiamo fare. Ma certo! Facciamo una cosa tipo jam session, un pezzo che era molto caro a un bravissimo sassofonista polacco che si chiamava Janusz Muniak, a cui è dedicato un club a Cracovia, U Muniaka, musicista strepitoso, il maestro dei maestri dei sassofoni polacchi, sassofonisti, Janusz Muniak. Lui amava molto suonare questo brano, un vecchio standard che si intitola Alone Together. Alone Together. Thank you. Thank you.